senza onore se non precario, senza libertà se non provvisoria, in attesa della scoperta del crimine, senza posizione se non instabile, come il poeta festeggiato un giorno in tutti i salotti, applaudito in tutti i teatri di Londra e il giorno dopo scacciato da tutte le locande e privo d'un guanciale su cui posare la testa, costretti come Sansone a girare la macina dicendo come lui: i due sessi morranno ciascuno dal suo lato, esclusi persino, salvo che nei giorni di grande calamità, quando la maggioranza si raduna attorno alla vittima, come gli ebrei attorno a Dreyfus, dalla simpatia e a volte dalla compagnia dei loro simili, cui procurano il disgusto di vedersi quali sono, ritratti in uno specchio che, non lusingandoli più, denuncia tutte le tare che si erano rifiutati di constatare in loro stessi e li costringe a capire che ciò che chiamavano il loro amore e che, giocando sulla parola, avevano corredato per senso sociale di tutto quanto la poesia, la pittura, la musica, la tradizione cavalleresca, l'ascetismo possono aver aggiunto all'amore, non deriva da un ideale di bellezza liberamente prescelto, ma da una malattia inguaribile. Come gli ebrei, di nuovo, tranne i pochi che si ostinano a frequentare solo gente della loro razza e hanno sempre sulle labbra le frasi rituali e le battute consacrate, spinti a fuggirsi l'un l'altro, a cercare coloro che meno gli somigliano e meno li accettano, a sopportare i loro sgarbi, a inebriarsi della loro condiscendenza. Ma riuniti pur sempre ai loro simili dall'ostracismo che li colpisce, dall'obbrobrio in cui sono caduti, sì che han finito con l'assumere, in conseguenza di una persecuzione non diversa da quella di Israele, le caratteristiche fisiche e morali d'una razza, a volte attraenti, spesso ripugnanti, trovando, malgrado tutte le beffe con cui quelli che più mischiati, meglio assimilati alla razza avversa, sono relativamente in apparenza meno invertiti, subissero quelli che lo sono rimasti di più. Un po' di distensione nella compagnia dei loro simili e persino qualche conforto nella loro esistenza, al punto che, pur negando che formino una razza, il cui nome costituisce la peggiore ingiuria, coloro che riescono a nascondere d'esserlo smascherano volentieri chi lo è, meno per danneggiarlo, cosa da cui peraltro non rifuggono, che per scusare se stessi, e vanno a cercare, come un medico l'appendicite, l'inversione sì nella storia, ricordando con piacere che Socrate era uno di loro, così come gli israeliti dicono che Gesù era ebreo, senza pensare che non c'erano anormali quando l'omosessualità era la norma, né anticristiani prima di Cristo, e che solo l'obbrobrio fa sì che un crimine sia tale, giacché ha lasciato sussistere solo coloro che erano refrattari a ogni predicazione, a ogni esempio, a ogni castigo, in virtù d'una disposizione innata talmente particolare da offendere gli altri uomini, sebbene possa accompagnarsi ad elevate qualità morali, più di certi vizi inconciliabili con esse come il furto, la crudeltà, la malafede, che però l'uomo comune, comprendendoli meglio, è più propenso a scusare. Membri d'una massoneria assai più estesa, più efficace e meno sospettata di quella delle logge, perché si fonda su un'identità di gusti, di bisogni, di abitudini, di rischi, d'apprendimento, di conoscenza, di relazioni, di glossario, e nella quale anche coloro che sperano di non conoscersi ben presto si riconoscono. Per via di segni naturali o convenzionali, involontari o voluti, che additano un suo simile al mendicante nel gran signore cui sta chiudendo la portiera della carrozza, al padre nel fidanzato della figlia, a chi voleva guarire, confessarsi, a chi avrebbe bisogno d'essere difeso, nel medico, nel prete, nell'avvocato ai quali si è rivolto, costretti tutti a proteggere il loro segreto. Ma essendo a parte d'un segreto degli altri che il resto dell'umanità non sospetta, tanto che ai loro occhi i più inverosimili romanzi d'avventura appaiono veri, giacché nel romanzesco anacronismo di quella vita l'ambasciatore è amico del forzato e il principe, con una certa scioltezza che gli viene dalla sua educazione aristocratica e che un tremante piccolo borghese non potrà mai avere, uscendo dalla casa della duchessa va ad incontrare il teppista. parte reietta della collettività umana è tuttavia parte importante, sospettata dove non esiste, ostentata, insolente, impunita dove nessuno ne supporrebbe la presenza. Con aderenti ovunque, nel popolo, nell'esercito, al tempio, in galera, sul trono, capaci insomma almeno nella maggior parte dei casi di vivere in affettuosa, pericolosa intimità con gli uomini dell'altra razza, di provocarli, giocando a parlare del loro vizio come se non fosse loro, gioco facilitato dalla cecità o dalla falsità degli altri, gioco che può protrarsi per anni sino al giorno dello scandalo, quando i domatori vengono sbranati, costretti sino a quel momento a nascondere la propria vita, a distogliere gli occhi da ciò che gli occhi vorrebbero fissare, a posarli su ciò da cui vorrebbero distoglierli, a mutare il genere di tanti aggettivi nel loro vocabolario, costrizione sociale alquanto lieve se paragonata alla costrizione interiore che il loro vizio, o ciò che impropriamente viene così chiamato, impone loro non più nei confronti degli altri, ma di loro stessi, e in modo che esso non appaia un vizio ai loro propri occhi. Ma alcuni, più pratici, più indaffarati, non potendo provvedere da soli o non volendo rinunciare alla semplificazione della vita e al guadagno di tempo resi possibili dalla cooperazione, si sono fatti due compagnie, la seconda delle quali è composta esclusivamente da gente come loro. Tanto più colpisce questo in chi è povero e venuto dalla provincia, senza amicizia, senza niente, tranne l'ambizione d'essere, un giorno, un medico o un avvocato celebre, con una testa ancora vuota d'opinioni, un corpo privo d'ogni vezzo, che gli conta di poter rapidamente abbellire, così come acquisterebbe, per la sua stanzetta nel quartiere latino, qualche mobile del genere di quelli adocchiati e presi a modello in casa di persone già arrivate nella professione proficua e seria dove lui stesso sogna di inserirsi e diventare famoso. In simili individui, il loro gusto particolare, ereditato inconsapevolmente, come una predisposizione alla musica, al disegno, alla cecità, è forse la sola forma vivace e dispotica di originalità. Qualcosa che, certe sere, li costringe a mancare a quel certo incontro, utile alla loro carriera, con persone di cui, per il resto, essi adottano il modo di parlare, di pensare, di vestirsi, di pettinarsi. Nel loro quartiere, dove, a prescindere da ciò, frequentano solo compagni di studio, maestri o qualche compaesano arrivato e protettore, hanno ben presto scoperto altri giovani cui li avvicina lo stesso gusto particolare. Non diversamente da come, in una piccola città, legano fra loro il professore di liceo e il notaio ugualmente appassionati di musica da camera o di avori medievali. Applicando all'oggetto del loro svago lo stesso istinto utilitario, lo stesso spirito professionale che li guida nella carriera, si incontrano con costoro in riunioni cui i profani non sono ammessi più che a quelle fra amatori di vecchie tabacchiere, di stampe giapponesi, di fiori rari, e dove, a causa del piacere di istruirsi, dell'utilità degli scambi e del timore delle competizioni, regnano ad un tempo, come in una borsa di filatelici, la stretta intesa dei competenti e le feroci rivalità dei collezionisti. Nessuno, d'altronde, al caffè, dove hanno il loro tavolo, sa di che genere siano tali riunioni. Se di una società di pesca, di segretari di redazione o di ragazzi dell'Andre. Tanto il loro abbigliamento è corretto, i loro modi freddi e riservati, e tanto poco, e solo di sfuggita, osano guardare i giovanotti alla moda. I giovani leoni, che pochi metri più in là, parlano a gran voce delle loro amanti, e in mezzo ai quali coloro che li ammirano senza ardire ad alzare lo sguardo, verranno a sapere solo 20 anni dopo, quando gli uni saranno candidati a qualche accademia e gli altri vecchi frequentatori di club, che il più seducente, ridotto ora a corpulento e ingrigito Charlot, era in realtà come loro, ma altrove, in un altro mondo, sotto altri simboli esteriori, con segni stranieri la cui differenza li ha indotti in errore. Ma i vari gruppi sono più o meno avanzati e come l'Unione delle Sinistre differisce dalla Federazione Socialista e una certa società di musica mendelssohniana dalla Scuola Cantorum, così certe sere, a un altro tavolo, siedono degli estremisti che lasciano intravedere un braccialetto sotto il polsino o addirittura una collana nella svasatura del colletto. Costringono a una fuga precipitosa a furia di sguardi insistenti, sorrisini e risate, reciproche carezze, una banda di collegiali, e sono serviti con una cortesia sotto la quale cova l'indignazione da un cameriere che sarebbe felice, come le sere in cui serve i Dreyfusisti, d'andare a chiamare la polizia, se non lo fosse ancor più di intascare le mance. A siffatte organizzazioni professionali, l'intelligenza contrappone il gusto dei solitari. E senza troppi artifici da un lato, giacché non fa altro che imitare gli stessi solitari, convinti che nulla sia più diverso dal vizio organizzato di ciò che appare loro come un amore incompreso. Con qualche artificio, tuttavia, perché queste indifferenti categorie corrispondono, oltre che a tipi fisiologici diversi, a successivi momenti di un'evoluzione patologica o più semplicemente sociale. Ed è assai raro, in effetti, che i solitari non vadano un giorno o l'altro a fondersi dentro tali organizzazioni, a volte per semplice stanchezza, per comodità, così come coloro che ne sono stati i più fieri oppositori finiscono col farsi installare il telefono, col ricevere gli Yena o col fare acquisti da Potin. In generale, d'altronde, essi vi ricevono un'accoglienza tutt'altro che buona. Durante una vita relativamente pura, infatti, la mancanza d'esperienza, la saturazione cui li ha ridotti l'eccessivo fantasticare, hanno impresso più fortemente in loro gli specifici caratteri di effeminatezza che i professionisti hanno cercato di cancellare. E bisogna ammettere che in alcuni dei nuovi arrivati la donna non è solo interiormente unita all'uomo, ma schifosamente visibile, scossi come sono in una sorta di spasmo isterico, da stridule risa che fanno muovere convulsamente le mani e le ginocchia, non più somiglianti alla maggior parte degli uomini di quelle scimmie dall'occhio malinconico e cerchiato, dai piedi prensili che indossano smoking e cravatta nera. Di modo che i nuovi adepti sono giudicati da persone peraltro meno caste di loro, compromettenti da frequentare, e si stenta ad ammetterli. Tuttavia li si accetta, ed essi beneficiano allora delle facilitazioni grazie alle quali il commercio, le grandi imprese, hanno trasformato la vita degli individui, rendendo loro accessibili merci in precedenza troppo costose e di difficile reperibilità, e che adesso li sommergono con l'abbondanza di ciò che, quando erano soli, non erano riusciti a scovare in mezzo alle più grandi folle. Ma, nonostante questi molteplici sfoghi, la costrizione sociale è ancora troppo greve per certuni, soprattutto fra coloro nei quali non si è esercitata la costrizione mentale e che sono ancora convinti che il loro genere d'amore sia più raro di quanto non è. Lasciamo da parte, per il momento, quelli che disprezzano le donne, in quanto il carattere eccezionale della loro inclinazione fa sì che si ritengano superiori ad esse. Stimano l'omosessualità un privilegio dei grandi geni e delle epoche gloriose. E quando si adoperano per far condividere ad altri il loro gusto, non lo fanno tanto come il morfinomane con la morfina nei confronti di chi sembra loro più predisposto, quanto di chi giudicano più degno, per zelo d'apostolato, come altri predicano il sionismo, il rifiuto del servizio militare, il sensimonismo, il vegetarianesimo e l'anarchia. Certuni, se li si sorprende di mattina, prima che s'alzino dal letto, mostrano un'ammirevole testa di donna, tanto l'espressione è generale e simboleggia l'intero sesso. I loro stessi capelli l'affermano, la loro piega è così femminile e sciolti ricadono così naturalmente in trecce lungo la guancia che ci si stupisce che la giovane donna, la fanciulla, la Galatea appena desta nell'inconscio di quel corpo d'uomo in cui l'hanno rinchiusa, abbia saputo così ingegnosamente da sola, senza averlo imparato da nessuno, approfittare delle minime fessure della sua prigione, trovare ciò che era necessario alla sua vita. Naturalmente, il giovane uomo che ha quella testa deliziosa non dice «sono una donna». Se, per una quantità di possibili ragioni, vive con una donna, può addirittura giurarle di non esserlo, di non aver mai avuto relazioni con uomini. Ma basta che lei lo guardi quale l'abbiamo mostrato, steso su un letto, in pigiama, le braccia nude, il collo nudo sotto i capelli corvini. Il pigiama si è trasformato in una camicia da notte, la testa nella testa di una bella spagnola.